Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, economia oggi in primo piano con l'Eurogruppo di questo pomeriggio a Bruxelles. Tra i temi in agenda anche i conti italiani. Prosegue infatti il negoziato sulla correzione dei nostri conti pubblici. La Commissione europea resta in attesa che il governo risponda alla sua lettera, magari già ai margini di questo Eurogruppo, mentre i falchi puntano ad aprire una riflessione sulla flessibilità. Se non sembra venire chiaramente messa in discussione la parte di spese legate all'emergenza terremoti, alcuni ministri delle finanze rigoristi starebbero pensando di cominciare a considerare strutturali le spese legate all'immigrazione, eliminandole quindi dal computo della flessibilità. L'arrivo del ministro dell'economia Padoan a Bruxelles è previsto tra circa mezz'ora in serata conferenza stampa. I leader dell'Unione Europea, tanto Tusk quanto Juncker, che la rappresentano al G20 e al G8, hanno costantemente chiesto ai partner mondiali che la gestione dei rifugiati non sia lasciata solo sulle spalle dell'Europa. L'Europa ha fatto molto nell'affrontare la crisi rifugiati, ma i nostri leader continueranno a impegnarsi con i leader mondiali per una più equa suddivisione del carico di uno dei più importanti fenomeni globali. A dirlo oggi il portavoce della Commissione Europea Skinas, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull'annuncio che il presidente americano Trump bloccherà l'accoglienza dei rifugiati negli Stati Uniti, compresi i siriani. I hope that today finally we shall find the common ground. Di immigrazione si sta parlando oggi a Malta nel vertice informale dei ministri degli interni e della giustizia europei. Come state ascoltando, il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos, arrivando al summit, ha dichiarato: spero oggi finalmente troveremo terreno comune sulla solidarietà. Dobbiamo interpretare questo concetto tutti allo stesso modo. Abbiamo bisogno di solidarietà anche nella sicurezza. Dobbiamo scambiare informazioni e mettere in connessione i nostri sistemi di intelligence. Spero che stasera tutti faremo un importante passo in avanti, così Avramopoulos. Allarme del vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel. Le elezioni presidenziali francesi saranno un momento decisivo per l'Europa. Se dopo la Brexit ai nemici dell'Europa riuscirà a segnare una nuova vittoria in Olanda e in Francia, allora davvero si rischierà il crollo del più grande progetto di civilizzazione del XX secolo, cioè l'Unione Europea, così Gabriel. Nella 2015 il programma Erasmus Plus ha permesso a 678.000 europei, un numero mai raggiunto prima, di studiare, formarsi, lavorare e fare volontariato all'estero. Nello stesso anno l'Europa ha investito 2,1 miliardi in oltre 19.000 progetti. Questi i principali risultati presentati nella relazione annuale sul programma pubblicata oggi dalla Commissione europea. E il Parlamento europeo celebra la giornata della memoria anche con una mostra tutta italiana. Ricordare la Shoah non solo perché è la peggiore tragedia della storia europea, ma perché non si ripete, perché purtroppo l'antisemitismo non appartiene solo al passato. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha spiegato il senso della commemorazione organizzata all'interno dello stesso Parlamento europeo in occasione della giornata della memoria di domani. Una data, il 27 gennaio, non casuale. Proprio quel giorno, infatti, nel 1945, le forze sovietiche liberarono 7.000 sopravvissuti nel campo di concentramento di Auschwitz. Nel frattempo però già 6 milioni di ebrei erano stati sterminati dai nazisti. Durante la cerimonia è stata consegnata la medaglia della tolleranza al regista cinematografico russo Konchalovsky, un riconoscimento per il suo film Paradise, che racconta la relazione tra un internato in un campo di concentramento nazista e un ufficiale dell'SS. Ma il Parlamento europeo ha affidato anche all'arte il compito di non dimenticare l'Olocausto. Fino a domani infatti una mostra tutta italiana celebrerà la giornata della memoria al terzo piano dell'istituzione di Bruxelles. Una trentina i lavori selezionati dal curatore Ermanno Tedeschi, cui si affiancano le opere realizzate attraverso un concorso degli alunni della scuola ebraica di Milano. La mostra è patrocinata dall'eurodeputata del Partito Popolare Europeo Lara Comi, che ritiene sia un dovere da parte delle istituzioni europee ricordare quanto accadde allora. Sensibilizzare tutti i colleghi, ma anche le giovani generazioni, fare un passo avanti verso la pace che era la base dell'Unione Europea. Adriana Fracchia, Radio 24, il sole 24 ore. È tutto per questa edizione di Europa 24, curata e condotta da Sergio Nava. Ora la linea a tutti convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.